hanno un posto, il mio è nei baci che ci diamo. A me piace moltissimo, è il prossimo singolo, abbiamo fatto il video di quello in Puglia che uscirà fra breve, immagino. È una canzone un po' bizzarra perché vuole mettere in paragone l'intimità di una persona e il mondo, cioè il mondo ha un posto per ogni cosa. Il mio paese lo riconosco nelle piazze, nelle scuole, i nostri figli possono diventare dei fiori, ma io che posto ho? Io che cavolo ci faccio qua? Che è un po' la domanda che è ovviamente nascosta in mezzo a tutto il disco. Io che cosa servo? Allora, questa cosa che il bacio che posso dare a te o a mia madre o a mia figlia sono la come dire, una cosa che nessuno mi può rubare, una cosa dove vive la mia essenza. Io vivo nel bacio che ti do, perché quella è la nostra casa, quello è il nostro mondo, che nessuno ci potrà levare, perché in realtà, come dire, protegge. È un po' quello. Io vivo lì, nei baci che ho, perché il resto non mi è concesso, però quello non me lo puoi levare. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La televisione nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Fox International, Milano. Figlio d'arte, talento da esportazione. Protagonista della nuova serie americana Missing, insieme a Ashley Judd, Adriano Giannini. Sostanzialmente la storia di questa ex agente della CIA, che noi non sappiamo essere un agente della CIA, ma che ci sembra una, come si chiama, una casalinga non disperata. A un certo punto il figlio parte per una vacanza studio in Italia. In questa vacanza studio a un certo punto scompare, non gli manda più messaggi, non gli telefona più. Lei si insospettisce, prende un aereo, va a Roma e va alla ricerca del figlio. Scopriamo che non è una casalinga normale, ma è un ex agente della CIA, super trained, come si dice, ritirata dopo la morte del marito, anche lui agente della CIA, e adesso si trova alle prese con questo rapimento del figlio che deve ritrovare. Quindi lei, da ex agente della CIA, non ha accesso a tutti determinati dati, cose per la ricerca, chiama me, che sono un agente invece dell'Interpol in Europa, ex amante suo, sedotto, abbandonato, lasciato disperato in Italia così nella sua, e lei mi chiama dopo 10 anni e mi dice aiutami, e io incomincio a aiutare nella ricerca del figlio. Come mai hanno scelto questo Adriano Giannini? Ero a Los Angeles, in California, ero nella Silicon Valley perché ero in concorso in un festival molto importante di cortometraggi, perché ho scritto, diretto, prodotto un cortometraggio, quindi ero con il mio cortometraggio lì in California. E quindi, stando lì in California, ho avuto un vantaggio, nel senso che ho potuto fare i provini lì. Credo che quello mi abbia in qualche modo favorito rispetto a tutti gli altri attori che credo hanno fatto provini in tutta Europa, insomma. Poi me l'hanno scelto, che ne so, insomma, ci sarà pure qualche merito. Perché un ex agente dovrebbe uccidere un uomo del SISDE? Qualcuno può darmi una risposta? Fitzpatrick, che informazioni abbiamo? Parla. Rebecca Winston, attiva dall'89 al 2001, addestrata da Martin Newman, è stata una delle sue ultime allieve. All'epoca erano molto intimi. Amanti? No, lei lo vedeva più come una figura paterna. Che sai della sua famiglia? Un figlio, Michael, un marito, Paul Winston. È stato anche lui un agente, più anziano di lei di 5 anni. Ucciso in azione nel 2001. Dall'intelligence russa con un'autobomba. La versione ufficiale è che è stata una vittima civile casuale di terroristi neofascisti. E lei va in pensione, che coincidenza. Usufruendo del pacchetto completo del pensionamento, ma come agente non era stata un granché, c'è poco nel suo fascicolo. Proprio le persone da cui guardarsi. Più piccolo è il fascicolo e migliore è l'agente. Guardando la tua filmografia, insomma, viene fuori che com'è? Sei un globetrotter. Sì. Not bad. Not bad. Quanto ti piace lavorare all'estero e quanto pensi che invece gli italiani ti abbiano capito, oppure no? No, a me piace lavorare ovunque. Il lavoro dell'attore comprende il viaggio, lo spostamento, è parte del fascino di questo lavoro. Preferisco sempre lavorare fuori. Se mi propongono un film che è a Roma, ai Parioli, dove vivo, non so, un po' mi mette un po' tristezza. Mi piace più avere la possibilità di andare in altri luoghi, scoprire altre culture, avere la possibilità di di lavorare, perché un conto è visitare da viaggiatore, da turista dei posti, un conto è lavorarci, quindi viverci 3-4 mesi, lavorare con le persone del posto, si capisce la cultura e quello fa parte del fascino anche di questo lavoro. In Italia penso di non essere stato usato, penso di dover essere, mi dovrebbero usare un po' di più, quello sì. E lavorano sempre gli stessi in Italia, tu hai questa impressione o no? Sì, sai, tanti sono anche miei amici, quindi insomma, però in Italia c'è un po' questo, sì, se devo fare una riflessione per quello che mi riguarda, penso quello che ti ho detto, cioè non è che mi sento né sottovalutato o altro, mi sento non sfruttato, quello sì, però arriverà, quando gli va io sono pronto. Ma la fiction italiana, la fiscio italiana, la faresti? La fiscio la faresti? L'ho fatta la fiscio. Secondo me non riescono ad adattare bene dei meccanismi che a mio parere sono matematici nella serialità, però in Italia ancora le sceneggiature, voglio dire, se una, io quando leggevo queste sceneggiature americane le capivo tutte, nonostante fosse un'altra lingua, e avevo voglia, finita l'episodio, di leggere, ma arrivasse la successiva. Spesso mi è capitato nelle serie italiane di leggere e non capire che cosa succedeva, perdermi nei meandri dei riferimenti, dei nomi, è successo quello, quell'altro, dico oddio, non ci sto capendo più niente, però dicevo boh, non è che avevo, non c'era quel meccanismo che anche in lettura si capisce, che poi vuoi vedere come va avanti, come va a finire. C'è una struttura che a mio parere è quasi matematica, che funziona, che abbiamo le prove che funziona quello. Pronto? Mi incontrerai? Pronto? Devo vederti. Sai dove? Ti prego. You promised you'd never call me again. I know. And yet here you are. I didn't have a choice, Giancarlo. My son is missing. How can I help? Do you know this man? Yeah, I know him. Becca, he was a former CISD agent. Italian intelligence? He left 4 years ago. No one knows who he's been working for since. Can you find out? We've been trying. The guy's a ghost. Visto che ti sei sperimentato con il corto ed è già andato piuttosto bene nei festival, sì, è andato bene, puoi seguire quella strada? Mi piacerebbe, perché mi sono molto divertito a fare il cortometraggio. Ho fatto tutto, nel senso l'ho scritto, l'ho prodotto, quindi ho creato una situazione ideale, che credo che è giusta anche quando fai un lavoro del genere, però non sempre hai le possibilità di creare una situazione ideale. In quel caso c'era, è stato un lavoro molto, molto affascinante per me, mi sentivo molto comodo dietro la macchina presa, anche perché ho fatto tanti anni l'operatore, quindi era una posizione che mi stava bene addosso. Non c'erano attori, c'erano solo bambini, quindi non so com'è fare il regista con gli attori, che di solito gli attori sono un po' rompipalle. Beh, però si dice che dirigere i bambini sia la cosa bambini più difficile. Animali. Bambini animali. Io non ci credo in questo, perché credo che sia difficile con i bambini, perché non accettano il tradimento, devi essere molto onesto con loro, perché se capiscono se stai bluffando si girano, non avrai più niente da loro. Quindi devi essere, coinvolgerli, essere coinvolto e in una maniera sincera con loro. Però è difficile il cast, quando tu scegli, quella è la fase difficile. Se scegli bene non hai problemi. Sette anni di opzione? Sette anni di opzione. È quasi un matrimonio se le cose vanno bene. Funziona così. Per quando inizia una serie nuova, firmi un contratto di 7 anni, il meccanismo è quello, tutti fanno così perché loro non vogliono, siccome gli investimenti sono grandi, e se una serie poi funziona e va bene, chiaramente loro vogliono tutti a disposizione, poi magari ti fanno morire subito, insomma, ti cancellano dal copione, però vogliono tenersi aperte tutte le possibilità, che da un punto di vista del network è assolutamente giusto, insomma. In Italia non funziona così, ma anche perché non abbiamo, insomma, a parte Reese, che cose che hanno fatto per tanto tempo, però non, poi gli attori lì cambiano, insomma, non c'è quel meccanismo, anche perché c'è un investimento diverso, no? Allora lì poi un attore che funziona diventa una grande star in una cosa così, allora loro lo vogliono tenere. Però sai, rispetto a delle altre serie americane che in realtà durano 22-23 episodi, 24 episodi, che vuol dire 9 mesi di lavoro, non fai niente, per 7 anni fai quello, poi nei 9 mesi ti riposi e te ne vai in vacanza, giustamente, perché hai anche tanti soldi e quindi ti vai a divertire. Però una serie così dura 5 mesi, quindi hai 8 mesi, 7 mesi di cose che puoi decidere di fare, cose tue. Quindi è capovolgendo, non facendosi impaurire dal contratto dei 7 anni, è invece un'opportunità che magari la facessero per 7 anni, così uno economicamente sta a posto e poi decide di fare altri progetti, quelli che vuole, insomma, mi sembra l'ideale. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il mio account di Twitter @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.